versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, qui in diretta dagli studi della radio di Milano, sono le 16:30 primi e 7 secondi, ricordo a tutti l'indirizzo, versione di Oscar, @radio24.it, perché come vedrete anche oggi, la puntata, torniamo a fare una puntata proposta da voi, ci sono due ascoltatori che hanno delle storie da raccontarvi, dei loro rapporti con la pubblica amministrazione italiana, quindi se scrivete e vi proponete con le vostre storie, non solo sulla pubblica amministrazione, possono riguardare imprese, banche, qualunque cosa e qualunque opinione anche su temi della vita nazionale, fatelo a questo indirizzo, perché come vedete spessissimo poi la trasmissione dà voce direttamente a voi, e se volete intervenire oggi per raccontare anche voi qualche vostra cattiva esperienza recente, 800240024 numero di telefono, 349-238-6666 come sempre per gli sms. Fatemi dire solo una cosa sul giorno di oggi, oggi è il 21 aprile, per qualcuno un po' versato in studi classici o naturalmente per i romani che lo sanno, è il Natale di Roma 2768 anni fa. Oggi, cosa che sapevo anni fa quando vivevo a Roma, poi me ne ero dimenticato, ho riscoperto che nel giorno del Natale di Roma, che è per tutti ovviamente un giorno feriale, mica è festivo, però per un antico privilegio i dipendenti del comune di Roma hanno la facoltà di stare a casa. E quindi succede che di 24.000 dipendenti del Comune di Roma oggi, tranne quelli che sono comandati in servizio, perché se lavorano gli asili nido restano in funzione visto che tutti lavorano oggi, dei rimanenti altri, cioè tranne i 7.000 dei servizi scolastici, dei rimanenti altri ne lavora solo uno su 17, tutti gli altri stanno a casa. Quando l'ho scoperto stamattina tornando da Roma a Milano, devo dire che mi sono un po' grattato la testa, perché l'Italia vive nel mondo pubblico di queste stratificazioni storiche che a mio giudizio non hanno alcun senso, perché visto che oggi i servizi ai romani bisogna darli, ripeto, non è un giorno festivo, l'idea che si ha il privilegio di poter rimanere a casa a me sembra una colossale sciocchezza. Poi ci ho aggiunto quello che leggevo sui giornali romani, e cioè la richiesta del rinvio a giudizio per corruzione e tangenti all'ex capo dei vigili urbani di Roma, Alfredo Giuliani, e mi sono incacchiato ancora di più, perché voi capite che, come abbiamo più volte detto, da vicende come Mafia Capitale a come la notte di Capodanno con i vigili assentatisi in massa dal lavoro, questo è uno dei comandanti dei vigili urbani, a differenza di quello attuale che viene rimpianto dai sindacati dei vigili romani, e si becca un rinvio a giudizio per corruzione tangenti. Capite bene che questo dice molto di come a Roma bisogna, senza generalizzare, pur tuttavia cambiare un pochino di cose, perché se è il comandante dei vigili urbani a prendere le tangenti, non posso credere che il suo corpo dei dipendenti e sottostanti vigili urbani sia invece totalmente immune da qualche problema, e soprattutto visto che si tratta di un comandante d'impianto, a differenza di quello attuale, a cui invece i sindacati, come sapete, hanno riservato giudizi durissimi perché ha avviato le inchieste per quello che è successo con altri capi. Chiusa parentesi, era la mia maniera per ricordarvi dal mio punto di vista il giorno del Natale di Roma e collegarlo a tutto quello che dobbiamo ancora cambiare in questo nostro paese. Ripeto, senza generalizzare, non ce l'ho col totale né dei dipendenti pubblici né tantomeno di quelli di Roma, ce l'ho con delle regole sbagliate, e sono sbagliate perché a tenerle sbagliate o a sbagliare violando il codice penale e innanzitutto chi sta in alto, ecco, è questo qui il mio punto di vista. Come vedete, no, non iniziate a dire che è un pregiudizio antiromano, perché guai come questi ce ne sono dovunque in Italia. Certo che nella capitale fa un po' riflettere che il giorno del Natale di Roma i dipendenti possano stare a casa, perché non riesco a capire, non c'è l'equivalente, per così dire, non è che il giorno di San Gennaro i dipendenti del comune di Napoli stanno a casa. Se ci stanno perché si mettono in malattia che non dovrebbero, ma lì invece è un antico privilegio che, per essere precisi, risale, sono andato a documentarmi, a un sindaco che introdusse questa bonanza, questo privilegio, nel 1949. Altri tempi, ma fossi il sindaco direi che questa roba finisce con l'anno prossimo. Allora iniziamo con il primo dei due ascoltatori che ci ha scritto raccontandoci una cosa che ho pregato di raccontarvela lui, per farvi capire ancora quali sono i problemi con cui siamo alle prese. È un ascoltatore che si chiama Marco Massarenti e che lavora in Germania a Francoforte. Buon pomeriggio e grazie Massarenti di essere con noi. Sì, buon pomeriggio. Allora, ci racconta secondo la sua storia. Lei ha studiato all'estero, lavora da qualche anno e vive a Francoforte, è iscritto all'anagrafe degli italiani all'estero, eccetera, eccetera, e quindi di là deve tentare ogni tanto di sbrigare anche qualche pratica nel nostro paese, è così? Esatto, l'idea è di cercare di finire, di sbrigare le ultime il prima possibile per non essere più legato alla burocrazia italiana che crea comunque problemi indescrivibili anche nonostante io sia all'estero, diciamo, quindi i tentacoli della burocrazia mi prendono anche fino in Germania, insomma. Allora, questa vicenda riguarda in particolare che tipo di pratica? Qual era il problema che dovevi risolvere? Allora, semplicemente io dovevo vendere la macchina di mia proprietà che avevo a Padova, e una vendita a privati, quindi sarebbe bastato un semplice la firma mia nel retro del certificato di proprietà, e questo avrebbe concluso, tramite una serie di pratiche auto, avrebbe concluso la trattativa, insomma la transazione. Se non che io, appunto, essendo all'estero, la firma sul certificato di proprietà in originale non potevo farla di fronte al titolare dell'agenzia pratiche auto, e quindi o tornavo in Italia o avrei potuto farlo avendo il certificato di proprietà in mano di fronte al consolato tedesco a Francoforte, oppure di fronte a un notaio tedesco. E cosa che è stata fatta, tra l'altro il notaio tedesco è rimasto sorpreso dalla cosa, è stato molto contento da vedere come funziona appunto in Italia le cose. Ha proprio detto i notai italiani sono fortunati, perché ancora per fare queste cose bisogna fare un'autenticazione della firma. Non diciamolo di questi tempi, perché come sai nel disegno di legge sulla concorrenza si tenta di limitare il regime attuale delle prerogative esclusive della professione notariale, del notariato, relativo agli acquisti di immobili non a uso abitativo fino ai 100.000 euro, e c'è una campagna durissima rottama la tutela di tutti i notai italiani che dicono che è un servizio svolto questo del consentire agli avvocati, non più solo ai notai, quel tipo di atti, che è un favore reso all'illegalità, alle mafie e alle banche che vengono equiparate sullo stesso lato. Comunque il notaio tedesco ha detto però in Italia fate ancora così, e a quel punto risolto, no? A quel punto avrebbe dovuto essere risolto, ma in realtà quando una volta il documento è stato ritornato alle stesse pratiche auto, che l'ha consegnato il PRA ha detto no, qui non accetto questa firma perché è stata fatta dal notaio tedesco e ho bisogno dell'autenticazione della firma del notaio tedesco. Il notaio italiano? Da parte di un notaio italiano, esattamente. Sì. Mio padre in questo caso è andato dal notaio italiano, che gli ha risposto io non posso fare questa cosa, è illegale. C'è un accordo bilaterale tra tutti del notariato tedesco con quello italiano, non posso autenticare una firma che è già stata autenticata. Viva l'Unione Europea, perfetto. Esatto. E questo è stato fatto perché il PRA comunque ha detto no, continuate così perché noi non possiamo, non conosciamo queste procedure, non ci fidiamo, insomma continuate per questa strada. Ci assumiamo noi la responsabilità qualora l'atto fosse stato illegittimo o comunque non necessario, e nel caso potremo anche addirittura rimborsare le spese dell'autenticazione, della seconda autenticazione da parte del notario italiano. Quindi a quel punto, cosa che tra l'altro la spesa del notaio tedesco era 25 euro, la spesa del notaio italiano un 140, quindi per la stessa identica cosa di due minuti, insomma, quindi parlando dei notai che vorrebbero, che sono un presidio della legalità. Strano, ma che strano, perché in tutto il resto, quando si tratta di lavoro dipendente, in Italia si guadagna molto meno che in Germania, ma invece, guarda, in questo tipo di atto notarile la differenza è 25 euro in Germania e 140 in Italia. Però, vabbè, anche questo aggiungiamolo nella nota informativa, qualche cosa vorrà dire, Però, a quel punto avevi risolto? No. No, perché la pratica è stata rimandata al PRA, che si è rifiutato ancora di portarla avanti, nonostante fosse stato il PRA stesso a dirmi di fare così, perché bisognava provvedere a fare un deposito notarile formale, penso che la dicitura sia questa, che in pratica aveva un costo intorno a tra gli 800 e i 1000 euro, e ovviamente per vendere un'auto usata... Aspetta un secondo... dovevate fare un deposito per il quale l'ammontare previsto era? L'ammontare, cioè la pratica notarile mi sarebbe costata tra gli 800 e i 1000 euro. Scusa, mi permetto di sorridere, perché è una cifra che quando ho letto sulla lettera ho detto no, c'è un errore di battitura. Invece no, tra gli 800 e i 1000 euro. E quindi ovviamente abbiamo pensato che non si poteva fare una cosa, già avevamo speso un 150 euro in più solo per le firme, se ne aggiungi un altro 150 arrivi a 1000, insomma non aveva tanto senso continuare così, e fortunatamente il titolare dell'agenzia Pratiche Auto ha pensato a un'alternativa, che era semplicemente quella di chiudere quella pratica, lasciarla morire, richiedere duplicati di carte di circolazione e certificato di proprietà, perché come ben sai in Italia bisogna avere due documenti che fanno la stessa cosa, e quindi abbiamo chiesto dei certificati. Io poi sono tornato in Italia per il periodo natalizio e ho fatto le firme lì, e si è risolto nell'arco di una giornata, insomma. Però questo cosa vuol dire? Ha comportato a me un costo ulteriore di 150 euro, 160 insomma, al titolare dell'agenzia Pratiche Auto, che si è accollato lui generosamente i costi dei duplicati, un altro 120, 140, e una perdita di tempo inconcepibile. Per non parlare poi, insomma, il tempo di ogni persona, ci sarebbe il concetto del costo opportunità, ma non so quanto sia conosciuto questo in teoria dovrebbe essere l'ABC, non stiamo parlando di una cosa, però fai bene ad avere dei dubbi sul fatto che un qualunque valutazione di costo opportunità in questo paese, quando si tratta di comparare efficienza e costi pubblici, le esternalità positive e negative, con ogni probabilità può sembrare di parlare arabo invece dell'ABC di ciò a cui dovrebbe rispondere ogni atto amministrativo relativo ai costi. Allora, nel frattempo, io devo dire la verità, non ho capito una cosa di tutta questa vicenda, perché mi ha molto colpito, al di là del PRA che hai descritto per quello che è, tra l'altro ricordiamo a tutti coloro che sono in ascolto che naturalmente stiamo aspettando da 3 anni la promessa unificazione del PRA con l'ACI eccetera eccetera, sapete che sono doppioni, sapete che ogni governo quando c'è la spending review del commissario di turno o si avvicina la legge di stabilità ci promette di unificare le strutture per far risparmiare i costi eccetera eccetera, dopodiché l'ACI, che è un coacervo di interessi locali e di categorie economiche, sono sincero, assolutamente per il momento imbattibile dalla politica, fa tornare esattamente al classico gioco dell'oca alla casella zero qualunque proposta, e quindi nel frattempo noi continuiamo a vivere con questi doppioni amministrativi per quello che riguarda la tenuta dei dati del parco automobilistico italiano. Ma quello che non capisco io è il conflitto tra i due notariati agli occhi dell'autorità pubblica italiana. Cioè funziona così tra qualunque altro paese europeo o è una specificità italiana rispetto a quello tedesco? Tu cosa hai capito di questa storia? Ma in realtà dovrebbe essere, cioè ci sono degli accordi bilaterali con numerosi paesi europei, Austria, Germania, Italia, Lettonia, Lituania e così via. Nella lettera che avevo inviato, cioè, avevo messo anche il decreto legge che a cui si riferiva, e questo insomma dovrebbe essere, non dovrebbe esserci nessun conflitto tra i due, ovvero un notaio italiano può firmare un documento per un cittadino tedesco, che il quale documento verrà utilizzato poi dall'amministrazione pubblica tedesca, e viceversa. L'unica cosa che potrebbe esserci, di cui potrebbe esserci necessario in caso di atti difficili, potrebbe essere una traduzione, quella che in inglese è chiamata la swan translation, sì, sì. Però nel caso di un'applicazione della firma, cosa c'è da tradurre? Cioè, sì, direi, no? E comunque non era il loro problema, non era la traduzione, insomma, perché ho chiesto, ma è un problema di traduzione? No, noi abbiamo bisogno di un'autenticazione del notaio tedesco, cosa che tra l'altro mi chiedo, ma il notaio italiano come ha potuto autenticare quella firma del notaio tedesco quando il notaio tedesco non era presente in loco? Però lì appunto il PRA aveva detto mi prendo io le responsabilità, quindi alla fine si è proceduto, ma questo non è servito a nulla, insomma. Anche se però per l'autentica dell'autentica c'è da fare questo piccolo particolare di questo deposito presso il notaio di una cifra che continua a farmi sorridere, ma grattare la testa, per così dire. Allora, alla fine, scusami, la lezione da trarre è che per un italiano iscritto all'AIRE, tutto in perfetta regola, che vuole condurre un qualunque negozio giuridico qui in Italia per sé o per i propri familiari, una cessione eccetera eccetera, stando non esattamente al Polo Nord ma in Germania, gli ostacoli da superare sono ancora inverosimilmente alti. Sono alti, sì, specie quando poi bisogna confrontarsi addirittura col consolato, che è praticamente un ufficio pubblico italiano di un qualche paesino del mezzogiorno. E le pratiche diventano astruse, diventa sempre difficile, devi passare al consolato due volte, non è per un italiano all'estero, è sicuramente più difficile che essere in Italia. Allora Marco, io ti ringrazio perché nella tra virgolette banalità della cessione di proprietà come auto usata, immaginatevi, come giustamente Marco Massarenti scriveva al termine della lettera che mi ha mandato, che tipo di ostacoli si possono incontrare quando per esempio un'impresa italiana controlla un ramo d'azienda oppure ha delle attività anche in altri paesi, stiamo parlando di paesi dell'Unione Europea e non stiamo parlando di chissà che cosa, se per una semplice cessione di proprietà di un autoveicolo bisogna fare tutto questo, a quali ostacoli va incontro un'attività di impresa trasfrontaliera nel nostro paese. Questo significa oneri che, come sono stati quantificati per l'atto di cui stiamo parlando oggi, comunque centinaia e centinaia di euro rispetto a una cosa che era 25 euro dalla firma iniziale del notaio tedesco, moltiplicatela per gli ammontari di centinaia di migliaia di euro, milioni di euro, centinaia di milioni di euro quando ci sono le imprese con le loro attività tra le frontiere. Ecco, questa è ancora la pubblica amministrazione italiana. Grazie a Marco Massarenti, e adesso abbiamo 60 secondi di strada e poi torniamo con un'altra storia, un altro ascoltatore. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta. Lo sapevo che mi sarei attirato delle osservazioni da parte degli ascoltatori, giustissime, sul fatto che il registro della motorizzazione e quello del PRA sono diversi, che non sono doppioni, che il regime della motorizzazione pubblica, quello del PRA è diverso e così via. Di queste cose, ripeto, ci siamo occupati innumerevoli volte. Non credo affatto, opinione mia personale, che nel nostro paese tutto ciò che è come è stato risponda alla vecchia logica hegeliana che ciò che è reale è razionale e che quindi non va cambiato. Non ci credo. Quindi bisogna unificare, bisogna semplificare, bisogna disboscare. Quindi è come i corpi di polizia, capito? Li abbiamo sovrapposti, spendiamo male i soldi che sommati diamo all'intera funzione della sicurezza nel nostro paese, perché ci abbiamo la rete capillare dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza, e neanche il corpo forestale riusciamo ad accorpare alla polizia. mantenendo nelle funzionali le finalità che sono importantissime, perché tutti insorgono dicendo no, la forestale è fondamentale, non si può toccare, non si può mai toccare un cazzo di tutto quello che nell'Italia è complicazione. La complicazione costa. Io sono per tornare a una banale regola di Massimo D'Azeglio, uno di quelli della generazione del Piemonte che ha fatto l'Italia Unita, che disse: prima la regola necessaria dello Stato e non spendere ciò che non si ha, capite? Ecco, e invece lo Stato spende quello che ritiene di avere, e invece è tutta roba vostra, dei contribuenti. Ecco, allora sentiamo l'altro ascoltatore, Stefano, Stefano Fontana, che mi ha dato una lunga lettera in cui mi ha raccontato le sue reazioni nel fare certe cose, per così dire. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Stefano. Buon pomeriggio Giannino, grazie di avermi chiamato. Allora, no, mi viene il dubbio, mi scusi la battuta iniziale, ma mi viene il dubbio che lei abbia inserito l'ascoltatore precedente per rispondere alla mia mail di chiusura che cercava di guardare fuori, invece lei forse mi chiude qui in Italia. No, perché lei diceva succede questo, ma io me ne vado, ecco, e le ho dato subito un italiano che sta lì, e quando deve regolare cose in Italia dice mio Dio, voglio non averci più niente a che fare. E naturalmente spero che non sia così, io spero che l'Italia possa cambiare. Allora, a lei invece cosa è successo? Lei cosa fa nella vita? Io faccio l'amministratore di una piccola azienda veneta che si occupa di edilizia e di energie rinnovabili. Come le ho scritto nella mia mail, ritengo opportuno premettere, perché faccio mente anche a quello che è stato l'intervento qualche tempo fa della signora Antoniazzi, sì, della Ditaga, che sicuramente si trovava in situazioni ben più drammatiche ed è stata molto più eroica di quanto siamo noi in questo momento, che siamo un'azienda sana e che quindi per il sentito comune dovrebbe non rompere le scatole, diciamo così, sì, perché sì, i problemi dovrebbero essere solo di chi non ce li ha. In apprezzo, realtà non è, apprezzo molto Stefano che tu lo dica, perché con la testimonianza della signora Antoniazzi è stata, ha bucato la testa e il cuore di tantissimi, e io poi purtroppo mi dolgo di poter fare solo questo, poi la richiameremo. Comunque, allora, che cosa ti è capitato? Mi è capitato che poco tempo fa, la settimana scorsa, mi sono imbattuto nella relazione complessiva sul bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, vale a dire quel documento che il Dipartimento della Funzione Pubblica ogni anno per legge, deve emanare, facendo sostanzialmente il punto su quello che è il peso della burocrazia sulle imprese italiane. E che dovrebbe rappresentare anche una specie di fiore all'occhiello per governi riformatori come questo, in realtà per qualunque governo, visto che da anni dicono, quando qualunque sia il colore del governo, tecnico, di destra o di sinistra, che semplificano, lo sblocca Italia di qua, riparte Italia di là. E quindi un documento che ha la sua importanza, per così dire. E che cosa hai trovato in quel documento? Ho trovato due passaggi, uno che è quello di conclusione, che lascia argomenti a dire poco, perché più che altro fa venire paura, e che dice, che glielo leggo perché è molto breve, sì, anche per il 2014, malgrado le maggiori informazioni pervenute, non è possibile predisporre al 31 marzo 2015 una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzi il risultato con riferimento a tutte le amministrazioni. Poi capite, cari ascoltatori, l'obbligo di legge della funzione pubblica, che dovrebbe avere come fiore all'occhiello, ora vi spiego in sintesi, ma in quadro complessivo e organico, tutte le semplificazioni che vi abbiamo prodotto e anche gli eventuali aggravi, perché è ovvio che poi ci sono anche norme di aggravio. Ebbene, a questa semplice missione il Ministero della Funzione Pubblica non è in grado di adempiere, dice non lo facciamo. Bene, bene, molto bene, non so cosa abbia pensato leggendolo, ma immagino. Esatto, appunto. No, niente, poi mi sono spostato, siccome se ci sono problemi da un punto di vista delle procedure e gli aggravi, io lo posso anche dire al Dipartimento della Funzione Pubblica, sono sicuramente eccessivi, non serve quantificarli, e si sposta sul piano delle tutele che per chi ha a che fare con l'amministrazione pubblica dovrebbero essere rappresentati dal TAR. Già. E anche in questo caso, più o meno nello stesso periodo, mi sono imbattuto, anche qui letteralmente imbattuto, in un'altra pronuncia del TAR che io, come le ho scritto, posso anche comprendere in termini di principio, ma che secondo me ha effetti devastanti per quanto riguarda proprio i principi di legge e di la legge uguale per tutti, no? Per essere precisi, stiamo parlando della sentenza del TAR del Lazio, della terza sezione del TAR del Lazio del 24 febbraio 2015. E che cosa stabilisce questa sentenza? Questa sentenza ha stabilito, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Ministero della Salute da parte di una cittadina, che questo rimborso, questo risarcimento era dovuto, ma non era dovuta alla penalità di mora, sarebbe dire quella penalità che viene data per incentivare di fatto il debitore ad adempiere per tempo. E perché non era dovuta? Perché, leggo anche qui, non è applicabile nel caso in cui le oggettive condizioni economiche in cui versa la pubblica amministrazione debitrice, nonché la notoria situazione di congiuntura, ha imposto severità alla spesa pubblica. Voi capite, cari ascoltatori, la conferma dello stato tirannico asimmetrico? Noi li dobbiamo pagare sempre gli interessi di mora sulle tasse se siamo in ritardo. Lo Stato si costruisce una sentenza in cui dice che non li paga ed è per rigore pubblico. È uno Stato ladro, ladro, ladro, ladro! Lo ripeterò tutte le volte perché ho le sentenze in mano per poterlo dire. Dice che è ladro e dice che ha ragione lui. Noi non dovremmo pagare gli interessi. Ma continuate con Radio 24, grazie al nostro ascoltatore. Siate sereni e appuntamento a domani.